as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Il Pane e le Rose. Oggi non possiamo non parlare della questione Magneti Marelli che leva al cuore. Dedicheremo diverse puntate. È una vertenza troppo importante per la città di Bologna, per la provincia. In questo caso è una fabbrica del gruppo, ex gruppo Stellantis, comunque indotto Stellantis. Sta avendo un'importanza di tipo nazionale, se ne parla ovunque perché fa parte di quello che sta accadendo in tutto il mondo dell'industria legata all'automotive. Ora, noi siamo stati il 28 settembre sotto la regione, c'erano tantissime aziende di Bologna, c'eravamo anche noi della Bonfiglioli, sono stato lì in solidarietà come tanti ai lavoratori della Magneti Marelli. Sono saliti su, quando sono scesi purtroppo l'incontro che c'è stato in regione con l'azienda è stato peggio di quello che uno poteva prevedere, perché non solo l'azienda assolutamente non ha assolutamente fatto nessun passo indietro, ha deciso di chiudere lo stabilimento, ha dichiarato lo stabilimento insostenibile sia perché costoso, ma anche ha spiegato il calo del lavoro per la transizione verso l'elettrico, dunque non è più strategico che va al cuore per loro, oltre ad essere costoso. Non ha ritirato i licenziamenti, vuole andare avanti, e anche la cessione di attività per quanto riguarda lo stabilimento di Crevalcore. Ora, ci sono stati tantissimi politici che hanno detto che questa è una cosa inaccettabile, perché questa è una chiusura completa, va oltre le normali relazioni sindacali, una decisione unilaterale presa dall'azienda senza dare nessun tipo di apertura verso i sindacati e verso anche la politica che vorrebbe inserirsi per poter riconvertire lo stabilimento, reindustrializzarlo, insomma cercare di trovare una soluzione per i 229 lavoratori che rischiano di l'anno prossimo di stare a casa. Ora, la decisione è stata presa dalla FIOM a livello nazionale. Visto l'esito dell'incontro, il 3 ottobre ci sarà una nuova mobilitazione generale di tutti i siti della Magneti Marelli, con un presidio al Ministero il 3 ottobre, dove ci sarà un incontro ufficiale, sperando che l'azienda cambi idea. E la solidarietà dei lavoratori degli altri stabilimenti è l'arma che la FIOM vuole mettere insomma in campo. Adesso ci sentiamo un pezzo, Trouble e Cypress Hill, perché insomma problemi ce ne sono tanti. Poi sentiremo Ciro D'Alessio, ne abbiamo parlato la puntata scorsa, è il segretario della FIOM di Bari. Bellissimo il suo motto, no? Rispondendo a chi aveva detto che insomma il trasferimento delle produzioni di Cavalcore a Bari insomma dava un sospiro di sollievo, visto che c'erano degli esuberi, diceva assolutamente no, se Crevalcore piange Bari non ride. Lo sciopero c'è stato del gruppo il giorno della manifestazione a Roma il 22 è riuscito, e lui era lì a Bologna il 28 in solidarietà portando uno striscione, che potete vederlo se andate da Magneti Marelli al presidio che hanno fatto i compagni, bellissimo, in cui si spiega chiaramente che la lotta è parte da sud e fine a nord, cioè c'è l'unione dei lavoratori del sud con quelli del nord perché non sono soli. Sentiremo da Ciro D'Alessio insomma quello che lui ha da dire, che ci spiega anche la situazione a Bari insomma. è importante ascoltare quello che lui ha da dire, perché molto probabilmente ci fa già capire come andranno le cose. Allora, siamo qui davanti alla Regione, manifestazione della Magneti Marelli di Chevalcore. Oggi siamo davanti alle istituzioni. C'è un sacco di aziende, c'è i sindacati confederali, ho visto anche la FILT, ma abbiamo anche, fortunatamente, Ciro D'Alessio, il segretario di Bari, e tu segui anche la Magneti Marelli di Bari, no? Sì. prendo l'occasione per dirti innanzitutto grande sciopero organizzato a Bari venerdì scorso, e non era scontato, l'ho detto anche in radio, che cioè, il nostro segretario nazionale all'inizio era un po' titubante, invece lui era contentissimo, io l'ho visto a Roma, ha detto è riuscito tantissimo lo sciopero in tutti gli stabilimenti. Allora abbiamo occasione di parlare con te, bellissimo il motto, se Bologna piange Bari non ride, questo l'abbiamo riportato Bari più volte. Bari sciopera, allora raccontaci un po' come si vive questa situazione qua a Bari. No, allora noi eravamo presenti all'incontro dove l'azienda annunciò la chiusura del sito di Crevalcore e contestualmente lo spostamento di alcune produzioni da Crevalcore a Bari, e posso assicurare a chi ci ascolta, a tutti i lavoratori di Crevalcore, se mai ce ne fosse bisogno, che non c'è stata nessun modo di felicità, di contentezza di questo, perché noi in quanto operai, in quanto lavoratori, siamo consapevoli del fatto che non ci si salva se muore qualcun altro, cioè Magneti Marelli in Italia non salva le produzioni, i posti di lavoro, gli stabilimenti, se chiudiamo da una parte e spostiamo dall'altra, è solo un gioco, diciamo, di spostamento delle produzioni, ma appunto, mentre qualcuno piange, nella testa di qualcun altro c'è, cioè, che qualcuno ride, cioè qualcuno addirittura, qualche giornale diceva Crevalcore piange e Bari ride. Ecco, questa è una cosa che non esiste al mondo, perché nelle assemblee che abbiamo fatto per preparare lo sciopero di venerdì posso assicurare che tutti gli interventi delle lavoratrici e dei lavoratori del sito di Bari erano convintamente sostenevano convintamente allo sciopero che bisognava fare il giorno dopo, perché si partiva da quella consapevolezza lì, che oggi c'è la necessità di sentirsi parte di una lotta comune per salvare i posti di lavoro in Italia e per salvare il settore dell'automotive, che è profondamente in crisi. Perché ripeto, non ci si salva se chiudono Crevalcore e spostano gli stabilimenti e le produzioni nello stabilimento di Bari, perché se inneschiamo questa dinamica, oggi è toccata a Crevalcore, domani toccherà a qualcun altro. Oggi noi qua ci siamo presentati con uno striscione che abbiamo donato alle lavoratrici e lavoratori di Crevalcore, che recita da nord a sud, da sud a nord, uniti nella lotta, Crevalcore non si tocca, perché siamo consapevoli del fatto che solo unendo le lotte, solo sostenendo la battaglia dei lavoratori di Crevalcore in questo momento, noi possiamo far sì che la Magneti Marelli in Italia rilanci le produzioni e ci possa essere lavoro per tutti. Certamente questa qui è una cosa che in fiomme è presente, io sono stato diverse volte a Crevalcore, anche ultimamente, parlando con i lavoratori, loro sanno che la fiomme comunque c'è, nel senso che purtroppo hai ragione, perché tra i giornalisti e secondo me anche la proprietà su questa cosa qua, perché sappiamo benissimo, certi giornalisti scrivono anche indirizzati, no? Perché chiaramente invece tutto intorno, fuori dalla FIOM, questa cosa qui c'è qualcuno che punta a dire non vi preoccupate, insomma, perché comunque le rimangono qua in Italia, anche perché è una multinazionale, KKR, non ricordiamo a tutti quanti che sta facendo una classica politica di razionalizzazione. Niente di più e niente di meno. 8 stabilimenti, ne ha chiuso uno, ma hai ragione benissimo, il posto potrebbe essere Sulmona, potrebbe essere qualcun altro, insomma, un po' più piccolo, perché loro razionalizzano. Questa cosa qui, a proposito, il mondo elettrico, cioè la parte elettrica è a Bari, a voi garanzie vi hanno dato perché vi spostano la plastica, no? Chiaramente, ma per il resto? No, allora, il tema dello spostamento della plastica ad oggi non siamo in grado di dire quanto cuba in termini occupazionali, cioè, è onestamente una discussione che noi non vogliamo fare, nel senso che oggi non è una discussione che ci appartiene, perché per noi, per quanto ci riguarda, lo stabilimento di Crevalcore deve essere salvato a costo di lasciare la produzione a Crevalcore, quindi il tema, certo, non esiste al mondo che noi ci mettiamo a ragionare di quanti posti di lavoro quello stabilimento può ricevere grazie, okay, a, quindi è un tema che noi oggi non vogliamo assolutamente affrontare. Bari sta producendo l'elettrico, all'incontro ovviamente non siamo Bari, sarebbe ipocrita da parte nostra dire che Bari è nella condizione di Crevalcore o piuttosto di Caivano. A Bari hanno prospettato 3 progetti importanti, uno riguarda Porsche e 2 riguardano Stellantis. Il tema reale è che se noi non abbiamo la capacità come paese di inchiodare Stellantis alle proprie responsabilità e quindi inchiodarle in questo paese, un'azienda che ha visto, perché il problema sta là, perché la produttrice è Stellantis, se non la inchiodi in questo paese alle proprie responsabilità, al mantenimento dei livelli occupazionali, al mantenimento delle produzioni, alle produzioni in Italia, è su carta che noi abbiamo 2 progetti su 3 che sono di Stellantis, ma se di Stellantis si disimpegna dal paese Italia e quindi non produce più in Italia, capite che quei 2 progetti che dovevamo fare su Bari saltano anche quelli, e quindi ci ritroviamo in una situazione complicata al pari di quelle di Crevalcore. Dunque, praticamente per lo sciopero, anche questa era una delle motivazioni dello sciopero, perché i lavoratori, abbiamo detto, di Bari, Noi dobbiamo scioperare in primis per Crevalcore, per farci vedere al fianco dei lavoratori di Crevalcore. Guardate, non è semplice solidarietà. La solidarietà, io ho imparato, cioè, sulla mia pelle, nella mia esperienza che ho fatto da operaio a Pomigliano con tutto quello che è successo in Fiat con Marchionne, che la solidarietà è soggetta a variabili che delle volte noi non possiamo controllare, che può essere un mutuo da pagare, un figlio da mandare a scuola, qualsiasi cosa. Noi dobbiamo parlare di condivisione delle lotte, noi dobbiamo condividere la battaglia di Crevalcore, non solo perché è moralmente giusto, ma perché è una battaglia che interessa anche a noi. Certo. E contestualmente la battaglia per far sì che il governo apra un reale tavolo di confronto dove al centro mettiamo il rilancio dell'automotive in questo paese, perché ripeto, se Stellantis si disimpegna da questo paese ne pagano le conseguenze non solo l'istituto di Crevalcore, non solo l'istituto di Caivano, ma anche Bari, a cui hanno prospettato 3 progetti importanti. Quindi per questo io parlo di condivisione e non solo solidarietà, che è un qualcosa di importantissimo. Attenzione, smuove, come dire, la solidarietà smuove le coscienze delle persone, però noi dobbiamo far entrare nella testa delle persone che questa battaglia è per la sopravvivenza, quindi è una condivisione di questa battaglia, non solo solidarietà. Certamente sì, cioè nel senso che se Crevalcore chiude, il problema è che dove lo possono fare tutti quanti gli altri. Apri un precedente. Prima, rilanciare tutti gli stabilimenti, anzi allargarli al limite. Addirittura allargarli. Il tema della transizione, noi dobbiamo far sì che la transizione non la subiamo, dobbiamo gestirla. E quando ci vengono a dire che nel 2035, allora guardi, io sono anche disponibile a spostare l'asticella dal 2035 al 2055, ma che facciamo nel frattempo? Lavoriamo sulle infrastrutture, lavoriamo su rilanciare gli stabilimenti, su riconvertire gli stabilimenti, lavoriamo su come noi li riconvertiamo gli stabilimenti, su quanti posti, cioè questo è il tema reale, che è tutto industriale, è tutto sindacale. Poi prima hai detto una cosa e ci tengo a sottolinearla, c'è qualcuno che lavora per mettere gli uni contro gli altri, esattamente così, è nella testa di chi dirige questo paese, nella testa di questo governo, nella testa dei padroni di questo paese, metterci gli uni contro gli altri, dire ai lavoratori di Bari, state lì, state fermi, non vi muovete perché arriveranno delle produzioni, sì va bene che la Valcore chiude, ci dispiace a tutti, però è una scelta che ha fatto l'impresa, però voi intanto, ma i lavoratori di Bari non sono caduti in questa trappola, che non è nulla di nuovo, attenzione, è una cosa che i padroni fanno da sempre, l'hanno fatto in altre aziende prima della Magneti Marelli e lo faranno anche in futuro, sta a noi essere bravi a capire che appunto bisogna condividere una battaglia comune per la salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Oggi tocca a Crevalcore, domani può toccare a chiunque altro se passa questa logica, e noi per questo oggi siamo qua, per dire a questi lavoratori non è semplice solidarietà, che ripeto è un valore importantissimo, è condivisione di questa battaglia, la sentiamo nostra perché sappiamo che è nostra. Dalla vittoria di questa battaglia può derivare il futuro degli stabilimenti in Italia e di quello che sarà l'atteggiamento di KKR, che ricordiamo è un fondo che certo, probabilmente chi dirige KKR in Italia non ci ha messo manco piede, ma ha chiuso uno stabilimento in Italia. Quindi dobbiamo condividere le lotte, unificare le lotte e far sì che la battaglia dei lavoratori di Crevalcore sia la battaglia dello stabilimento di Bari, di Caivano, piuttosto che di tutti gli altri stabilimenti dell'automotive, che oggi vive una crisi profonda e rischia di saltare generando centinaia di migliaia di perdite di posti di lavoro. Il 7 di ottobre la manifestazione della CGIL, ci sarà anche questo tema. Assolutamente, è importantissimo essere in piazza il 7 ottobre anche per questa battaglia qua, perché uno dei temi che noi affrontiamo lungo il percorso appunto della Via Maestra è proprio il rilancio industriale e di come noi immaginiamo l'industria in Italia da qui ai prossimi anni, di come noi immaginiamo la riconversione da qui ai prossimi anni. Ripeto, dobbiamo gestirla, ci piaccia o meno, è un qualcosa che sta avvenendo. Io ho fatto le assemblee ieri sera prima di partire per Bologna, ho finito alle 11 le assemblee a mezzanotte in macchina per salire qui a Bologna e stare con i lavoratori di Crevalcore. Nelle assemblee in Bosch qualcuno diceva sì, ma la transizione, il tema, argomenti legittimi da parte dei lavoratori, dobbiamo spostare al 2050 2060. Il tema reale è questo: il mondo sta cambiando da un punto di vista, c'è un'emergenza climatica o no? Questa emergenza climatica è derivata anche da quello che noi produciamo e come lo produciamo. Sicuramente l'automotive è o non è, può essere un problema, le automobili che inquinano, allora dobbiamo affrontarlo o non affrontarlo questo tema. Il problema non è cosa genererà l'elettrico piuttosto che, il problema è come noi affrontiamo un qualcosa che è inevitabile, non possiamo più rimandarla, e perciò il 7 ottobre saremo in piazza per chiedere a questo governo e imporre a questo governo che gestisca la transizione, investa le risorse e soprattutto inchiodi le multinazionali, i famosi padroni, alle proprie responsabilità. Non possono solo guadagnare miliardi sulla pelle delle persone, hanno delle responsabilità e dobbiamo ricordarglielo e sbattergliela in faccia. Ok, ti ringraziamo, noi ringrazio siamo Compagnia di Rose, è sempre con voi e con gli operai. Vi seguiamo con interesse, vi seguiamo okay, con interesse. Grazie compagni. Al 7. Ciao. Avete ascoltato Ciro, poi un pezzo bellissimo, un capolavoro della musica rock. Non lo presento nemmeno perché lo conoscerete tutti quanti. C'era un po' di vento, non me ne sono accorto, era un po' disturbato l'intervista, però si è capita. Ciro ha detto delle cose fondamentali, importanti. Io la faccio molto breve. Non vorrei dilungarmi troppo perché ha detto tutto lui. Fondamentalmente ha spiegato per filo e per segno com'è la situazione. E anche il motivo perché il 3 ottobre ci sarà uno sciopero generale di tutti gli stabilimenti e quanto sia importante la vittoria di Crevalcore. 8 stabilimenti, l'abbiamo spiegato nella puntata precedente. Il rischio è che la KKR veramente possa chiuderne tanti. è una multinazionale, ce ne sono tanti di stabilimenti in giro per il mondo. Il mondo, in alcuni paesi i costi energetici sono molto inferiori, in molti paesi già si producono dei modelli di Stellantis. Stellantis ha dichiarato che ormai l'endotermico lo sta abbandonando, anche l'ultimo motore GSE ne farà solo ibrido, insomma farà il full ibrido, andrà verso quel settore. Dunque tutte quelle aziende che lavoravano per i vecchi motori endotermici o si convertono o chiudono. E dunque la prospettiva è una battaglia comune del rilancio dell'indotto di Stellantis, e Stellantis si riprende un impegno, cioè non può abbandonare l'Italia. La paura è proprio questa, che in realtà dietro questa chiusura, questa ristrutturazione, questa razionalizzazione di costi, in realtà ci sia un disegno molto più grande di un'azienda come Stellantis che sta guardando fuori dall'Italia. Automaticamente, molto probabilmente, a rischio sono tutti i siti italiani. Ecco, è con un governo che fondamentalmente sulla conversione ecologica non sta facendo nulla e non ci sta mettendo una lira. Tutto questo crea grosse difficoltà e una paura non solo nel gruppo Magneti Marelli, ma in tutto il gruppo di chi lavora per l'automotive. Ora ci sentiamo alle prossime puntate per aggiornamenti, continueremo a parlare purtroppo di automotive, speriamo di parlare di altre cose, ci sentiamo a presto. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar, entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.